Euroreportage. Campione d'Europa. Erasmus, dove l'Unione non sbaglia. Di Laura Bettini. Correva l'anno 1987 quando nacque Erasmus, programma di mobilità per gli studenti europei, di cui quindi nel 2017 ricorre il trentennale. Tutto nato dalla testardaggine di Sofia Corradi, che negli anni 50 non vide riconosciuto il suo anno di studio negli Stati Uniti e, diventata docente universitaria, si batté strenuamente per la mobilità studentesca in Europa. Così raccontò in un'intervista a Maria Piera Ceci. Io la battaglia mia l'ho cominciata nel 69, poi nell'87 è finalmente arrivato l'Erasmus ufficiale dell'Unione Europea. Sono stati oltre 9 milioni in questi anni i partecipanti a Erasmus, con un record nell'edizione 2015 che ha visto 678.000 iscritti. Merito anche dell'ampliamento della formula. Dal 2014, infatti, Erasmus è diventato Erasmus Plus, o Plus, all'inglese, un programma che prevede scambi in tutti i settori dell'istruzione, dalla formazione alla gioventù, allo sport, al volontariato. Silvia Costa è coordinatrice della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Dal 2014 al 2020 abbiamo investito, ho deciso di investire il 50% di risorse in più per Erasmus, sono circa 16 miliardi e questa è una grande novità. Sotto l'addizione Erasmus Plus o Plus convivono vari progetti, vari programmi. C'è quello prevalente che riguarda il 75% delle risorse, delle borse per l'alta formazione, quindi studenti universitari, ma anche delle accademie e dei conservatori. Poi ci sono una quota interessante di volontari europei, cioè il servizio volontariato europeo che in 20 anni ha visto 100.000 giovani fare esperienze in Europa e fuori. C'è dentro anche tutto il tema della scuola, basti pensare ai gemellaggi fra le scuole, ai progetti fra le scuole e anche la formazione professionale. E c'è dentro, abbiamo difeso fortissimamente Erasmus Mundus, cioè la possibilità di fare esperienze anche nei paesi terzi, in collaborazione, partenariati anche con altre istituzioni educative. C'è la parte azione gioventù e quindi con le agenzie nazionali giovani che fanno da coordinamento e si è veramente dato spazio all'associazionismo giovanile. E poi, ultima e importante novità, solo dal 2014 c'è anche la voce Erasmus Sport, e cioè lo sport nel senso del sostegno all'associazionismo sportivo e in rete europea. Simone Acquaviva invece presiede Erasmus Students Network Italia. Una delle prime cose che si nota è la possibilità di ripetere l'esperienza Erasmus, che prima col programma precedente non era possibile. Molti studenti che partono per passare un periodo magari di 6 mesi, un anno durante per esempio la laurea triennale, poi vogliono subito ripartire durante la laurea magistrale, perché il nuovo programma Erasmus Plus dà la possibilità di effettuare più di uno scambio di mobilità. Ma ci manca ancora qualcosa in questo Erasmus Plus, secondo voi? Uno dei più grandi problemi è quello di, diciamo, equiparare tutti, non tanto le legislazioni, ma quanto il discorso di accessibilità dell'università. La difficoltà per molti studenti è quella, ecco, nel compilare piani di studio, nel farsi riconoscere gli esami. È sicuramente questo uno dei più grandi problemi, a volte dei più grandi freni all'Erasmus. La portata geografica del programma è passata dagli 11 paesi del 1987 agli attuali 33, tutti i 28 stati membri, più la Turchia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Con una dotazione di bilancio che consentirà a oltre 4 milioni di persone la possibilità di crescere all'estero. Anche se va detto che le mete preferite sono sempre un po' le solite: Spagna, Germania e Gran Bretagna in testa, seguite da Francia e Italia. E per chi sceglie l'Italia, la destinazione preferita è Bologna. Alessandra Scagliarini è prorettrice dell'Università di Bologna per le relazioni internazionali. Il nostro è un ateneo, come sappiamo, molto antico, il più antico del mondo occidentale, quindi anche molto conosciuto. Il nostro ateneo è nato come ateneo internazionale perché qui si radunavano già l'anno 1088 degli studenti che venivano un po' da tutte le parti d'Europa. Abbiamo un numero di accordi internazionale molto, molto elevato, e questo chiaramente incide sull'elevato numero di studenti che vengono a trovarci in mobilità. Noi come Ateneo investiamo moltissimo in azioni di internazionalizzazione anche della didattica, su 210 curricula, più di 60 sono internazionali, insegnati in lingua inglese, e molti di questi sono anche a titolo doppio, a titolo congiunto, e anche questo chiaramente è un fattore che attrae moltissimo studenti stranieri. Abbiamo investito molto anche sui servizi per gli studenti internazionali, abbiamo un International Desk che funziona molto bene e che assiste i ragazzi in tutte le varie fasi dello scambio, e dà anche la possibilità a loro di conoscere meglio la città e anche di imparare bene la lingua e la cultura italiana. Noi abbiamo un team di 40 persone che lavorano per le relazioni internazionali a diversi livelli, e un certo numero è proprio dedicato solamente all'International Desk per gli studenti internazionali. La classifica dei giovani che si muovono vede in testa i francesi, quasi 40.000 nel 2015, tallonati dai tedeschi, seguono spagnoli, polacchi e italiani. Sul totale il 60% sono ragazze. Ancora Alessandra Scagliarini. Noi siamo assolutamente in linea con le percentuali europee, perché noi nel 2015 abbiamo avuto un 59% di studenti Erasmus donne, perché si muovono di più le ragazze, forse perché sono anche di più le ragazze in generale, ma e questo non si sa, è un trend che rispecchia quello che sta avvenendo anche a livello europeo. La Gran Bretagna ha sostenuto Erasmus fin dalla prima edizione. È un paese che ha più ospitato che mandato i suoi studenti all'estero, perché l'accesso gratuito alle costose università del Regno ha sempre fatto gola a molti. Ma con la Brexit che succederà? L'europarlamentare Silvia Costa. Rispetto al tema Brexit, che è una delle cose su cui non è un caso che i ragazzi della Gran Bretagna europei sono più preoccupati, ce l'hanno dimostrato, hanno mandato una petizione di 10.000 ragazzi, noi abbiamo detto che Erasmus potrà continuare naturalmente su una base diversa, solo se però la signora May accetterà che comunque l'Inghilterra rimarrà nell'area, diciamo, del libero scambio, e dove sono garantite le quattro libertà fondamentali, fra cui la circolazione delle persone. Se, come ho qualche tempo fa detto, l'uscita della Gran Bretagna sarà hard, ovvero non invece accetterà di rimanere nello spazio europeo della libertà, allora sarà lei stessa che comprometterà la possibilità per i suoi ragazzi, ma anche per i nostri, di continuare l'esperienza Erasmus. Il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma. È quindi più che giusto che il 2017 sia un anno di festeggiamenti. Sentiamo ancora Silvia Costa. Ricordiamoci che Erasmus è nato nell'87, quindi due anni prima della caduta del muro di Berlino, e solo dopo hanno potuto i ragazzi dei paesi dell'est avere in campo questa opportunità, consolidarla. E devo dire che è molto emozionante anche l'altro giorno a Bruxelles, nella celebrazione di Erasmus, quando i ragazzi dell'est hanno detto: per noi è stata la prima esperienza di cittadinanza europea e di possibilità di andare all'estero in modo libero e potendo accedere ad altre università. Questo noi a volte lo dimentichiamo nella ricostruzione storica dell'Europa, e invece quest'anno, in cui appunto l'anniversario non è solo il 30 di Erasmus, sono anche i 60 dei trattati, questo 30-60 assume un grande significato di pratica e esperienza di cittadinanza europea per tutti. E intanto Erasmus Students Network si prepara per il 24 di febbraio a Roma. Simone Acquaviva. A Roma si daranno infatti gli stati generali della generazione Erasmus, che è un'iniziativa organizzata da Erasmus Student Network Italia assieme all'Agenzia Nazionale Erasmus Plus e la Fondazione Garage Erasmus, e sarà un consiglio appunto delle generazioni di studenti che dal 1987 ad oggi sono andati in Erasmus. L'obiettivo di questa iniziativa, che inizierà il 24 febbraio e si concluderà il 9 maggio durante la giornata dell'Europa che si celebrerà a Firenze, è quello di creare appunto una carta della generazione Erasmus, di creare delle policy suggestion presentare appunto delle richieste di miglioramento del programma Erasmus e della mobilità europea in generale. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.